L'ultimo lembo di via Corrado IV di Svevia si immette in piazza La Corte. La piazza, è facile, deve il nome allo scopo cui era adibita. Per secoli, infatti, è stato il luogo in cui, alla fine di ogni anno, magistrati e amministratori urbani si radunavano pubblicamente per passare il proprio titolo ai subentranti e a dare conto, davanti a tutti i cittadini riuniti, del proprio operato. La parola corte, dunque, è legata all'amministrazione giudiziaria che qui aveva la sua sede di rappresentanza. Al centro di Piazza La Corte svetta, imponente, Palazzo Ducale, un edificio in stile tardo rinascimentale, enorme e severo, che quasi incombe sui passanti. Si dice che fosse un palazzo dalla bellezza e dalla sontuosità straordinarie, reso stupendo soprattutto dalla grandiosa sala delle feste, dall'elegante stanza del biliardo e da un incantevole giardino pensile con l'affaccio balaustrato sul largo Catuma. Il palazzo si adornava inoltre di tutte le caratteristiche chicche di ogni palazzo ducale del tempo. Uno scalone enorme, una sala di ricevimento, un loggiato con giardino pensile e addirittura un accesso diretto, solo per chi abitava il palazzo, alla chiesa cattedrale. Di questo palazzo conosco una leggenda e chiedo conferma ad Annina, la quale annuisce senza nessuna esitazione. Già altri mi avevano riferito quanto si dice di questo silenzioso e semi-abbandonato edificio, che custodisca, nelle sue segrete, l'accesso a un passaggio sotterraneo fino ad un castello, via d'accesso in caso di assedio. Sono in molti a credere, erroneamente, che il castello in questione sia il celebre castello federiciano Castel del Monte, che però dista oltre 18 km dal centro della città di Andria. La leggenda, dunque, difficilmente in questi termini può trovare un fondamento. Eppure, se diversamente interpretata, da questa credenza popolare emergono le tracce di un fatto storicamente accertato. Allora bisogna, con uno sforzo di immaginazione, ribaltare la leggenda e pensare che forse un castello c'era e non era affatto distante, perché sorgeva proprio nel punto in cui oggi si erge l'edificio, detto Palazzo Ducale. Questo castello, probabilmente, era collegato attraverso una via sotterranea scavata nel tufo come le tante cisterne e i tanti cunicoli di Andria alla cinta muraria del borgo, collegata a distanza ben più ragionevole di circa 300 metri. Chiedo allora conto ad Annina a proposito di questa antica fortezza, da tanti andriesi dimenticata, e Annina conferma l'esistenza di un edificio precedente all'attuale, e parla di un palazzo dalla storia straordinaria, abitato prima dai Normanni, poi dagli Svevi e infine dagli Angioini. Insomma, questo castello era stato la sede degli amministratori stranieri della zona agricola di Andria, che era una delle più fiorenti e produttive contee di tutto il Regno di Sicilia. Secondo alcuni, l'antico edificio fu demolito, per altri fu solo modificato per fare posto, agli inizi del XIV secolo, a un nuovo e più moderno palazzo, nel momento in cui vi si trasferì una delle famiglie più importanti per la storia di Andria, la famiglia del Balzo, nata dall'unione in matrimonio nel 1308 di Beatrice d'Angiò e del duca Bertrando del Balzo. Dalle stanze di questo edificio, i De Balzo amministrarono Andria con saggezza e spirito illuminato. Crearono e ampliarono chiese, istituirono fiere commerciali tra cui la Fiera d'Aprile in onore al Santo Patrono, ampliarono e fondarono ospedali e nel perimetro delle mura istituirono una nuova porta, detta della Barra, dove i venditori di merci che arrivavano in città avevano l'obbligo di pagare un'imposta. Addirittura, uno dei doni di nozze dei Del Balzo è ancora oggi uno dei beni più sacri della città, una reliquia cristiana, considerata una spina originale della corona di Gesù Cristo, è ancora oggi venerata da molti andriesi. Lo stato attuale del palazzo fa davvero fatica a sovrapporsi all'immagine che ci regala la memoria storica, l'immagine viva di un momento di grande sviluppo e ricchezza per la città. Ricchezza e vivacità del borgo dovevano manifestarsi in tutta la loro potenza proprio nella piazza antistante il palazzo, dove si svolgeva il grande mercato cittadino. Si battevano ed essiccavano i legumi, si sgusciavano e si lasciavano asciugare le mandorle, si vagliava il grano e nei locali a piano terra vi erano i depositi di verdura e sui larghi marciapiedi laterali i banchi per la vendita, coperti da teloni che proteggevano la merce dalla pioggia e dal sole. Annina, che a due passi da quel palazzo ci è nata, mi dice che nel 1931, anno in cui il mercato fu trasferito, la vita in questa piazza si è spenta. Resta il ricordo di un luogo palpitante di vita, di odori, di suoni, di voci che hanno reso la Corte, la più importante piazza pubblica civile di Andria, assieme a Piazza Catuma.